Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sui Marò l'Italia torna a chiedere il ritorno di Girone dall'India, rischia altri 4 anni di attesa, dice il nostro paese. Un essere umano non può essere usato come garanzia. E sul caso Regeni, il nostro paese studia le misure per ottenere la verità dall'Egitto. Tra le ipotesi, sanzioni sul turismo, improbabile il richiamo dell'ambasciatore. Terrorismo. Il procuratore aggiunto di Venezia Nordio parla a Radio 24 e dice: è una guerra santa, anche in Italia ci sono cellule silenti, siamo sopra una polveriera. Alle 14 si chiudono le iscrizioni per il concorso della scuola. Rischio caos tra ricorsi, di cui uno già accolto dal TAR del Lazio, e ospiteremo la persona che l'ha vinto, e problemi organizzativi. L'amministrativa a Roma, Marino presenta il suo libro e si sfoga. Se avessi seguito i consigli del PD adesso starei in cella. Renzi lede la democrazia. Le cancellerie europee facciano attenzione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere qualcosa di un po' più articolato, e abbiamo da qualche giorno aperto il nostro canale Telegram, è telegram.me/effettogiorno per ricevere qualche aggiornamento da noi, canale che curo personalmente. In apertura dunque dell'edizione di oggi ci occupiamo della vicenda dei fucilieri di Marina accusati dall'India di aver ucciso due pescatori. La Torre Girone, lo ricordiamo, per ricordare la vicenda, erano imbarcati sulla petroliera italiana Enrica Lexi come nuclei militari di protezione contro la pirateria, accusati di aver ucciso appunto due pescatori imbarcati su un peschereccio indiano. Parliamo del 15 febbraio del 2012 al largo della costa del Kerala nell'India sud-occidentale. Lo stato e l'arte è questo: uno dei due, la Torre, in Italia per motivi di salute, l'altro Girone è ancora in India da 4 anni. Dunque ci sono importanti evoluzioni giudiziarie sulla base del fatto che si è deciso di ricorrere all'arbitrato e se ne sta discutendo all'AIA. Facciamo il punto su quello che è successo stamattina e su quello che può succedere nei prossimi giorni con la nostra Roberta Pellegatta. Roberta, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, come dicevi, si è aperta all'AIA la prima giornata di udienza davanti al Tribunale Arbitrale Internazionale sulla richiesta italiana di fare rientrare in patria il Marò Salvatore Girone, che come dicevi è tuttora trattenuto in India. Con i giornalisti all'AIA ha parlato l'ambasciatore Francesco Azzarello, agente del governo italiano, che si dice ottimista sulla decisione del tribunale. Secondo Azzarello però il procedimento arbitrale sul caso potrebbe durare almeno 3 o 4 anni, col conseguente rischio per Girone di rimanere a Delhi senza alcun capo d'accusa per un totale di 7-8 anni, quindi una grave violazione dei suoi diritti umani, spiega l'ambasciatore, secondo il quale il fuciliere deve essere autorizzato a tornare a casa fino alla decisione finale dell'arbitrato, anche perché, dice, un essere umano non può essere usato come garanzia del comportamento di uno Stato. Una richiesta questa però giudicata inammissibile dall'India, quanto si legge nelle osservazioni depositate al Tribunale Arbitrale che sono state rese pubbliche pochi minuti fa. Questo perché, si legge, c'è il rischio che Girone non ritorni in India nel caso venisse riconosciuta a Delhi la giurisdizione sul caso. Dunque l'India chiede in questo senso assicurazioni dall'Italia, che a quanto si sa il nostro paese è disposto a dare, perché un membro del team legale italiano, Daniel Bethlehem, ha infatti spiegato che il nostro paese è pronto a fornire ulteriori garanzie all'India, invitando il Tribunale dell'AIA a imporre condizioni per il suo rientro in patria, compresa quella di consegnare il suo passaporto alle autorità italiane, di non viaggiare all'estero senza un permesso e così via. Ma dei due fucilieri non si dibatte oggi solo all'AIA, ma anche a Bruxelles, dove nel pomeriggio ci sarà il 13° vertice UE-India. A quanto si apprende, al termine non ci sarà una conferenza stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi. I servizi del Consiglio hanno ammesso che il punto stampa è stato annullato proprio su richiesta del governo indiano, preoccupato per eventuali domande della stampa europea, in particolare sui Marò italiani. Però il Consiglio sta lavorando per convincere la delegazione indiana a partecipare a questa conferenza stampa e quindi staremo a vedere cosa succederà nel pomeriggio. Ti ringrazio, grazie Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Un'altra vicenda che riguarda le tensioni internazionali tra l'Italia e paesi considerati amici è sicuramente quella dell'Egitto per la tortura e l'assassinio del ricercatore italiano Giulio Regeni. Ieri la conferenza stampa dei genitori di Giulio insieme al senatore Luigi Manconi, al portavoce di Amnesty International. Il nostro paese ragiona in queste ore su eventuali ritorsioni nel caso la verità dall'Egitto non arrivi. Vogliamo capire con Gerardo Pelosi al Sole 24 Ore, che saluto. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. A cosa sta pensando il nostro paese adesso? Ma cominciamo innanzi col dire che le ipotesi, il campionario delle ipotesi beffa da parte egiziana si va arricchendo proprio questa mattina di una ulteriore, dell'ennesima ipotesi, cioè che Regeni sarebbe stato vittima di una banda di trafficanti di reperti archeologici. Era l'unica cosa che mancava in questo campionario, dopo il complotto dei fratelli musulmani, dopo le amicizie particolari anche a sfondo sessuale, dopo anche le ultime ipotesi, non parliamo poi dell'incidente stradale che è stata la prima versione, questa è arrivata dall'Egitto anche questa ultima ipotesi. Il ministro degli esteri ha detto in un'intervista che è apparsa oggi sul Corriere della Sera che l'Italia è pronta ad ogni misura. Ecco, non ha voluto specificare di che cosa si tratti, ha detto che comunque non si tratterà sicuramente del ritiro e del richiamo in patria dell'ambasciatore, perché prima si vuole vedere se la collaborazione investigativa è riuscita a fare quel salto di qualità che tutti si auspicano. Il team investigativo italiano dovrebbe tornare, quindi gli uomini dello SCO e del ROS dovrebbero tornare domani, mentre per il 5 aprile è attesa a Roma una missione degli investigatori egiziani che dovrebbero consegnare anche alcuni tabulati telefonici, alcune prove che loro dichiarano, ammettono. E quello, Gerardo, e quello sicuramente sarà un punto importante. Dicevi, è molto difficile appunto il richiamo dell'ambasciatore, e anzi viene escluso in queste ore dalla stessa Farnesina, e però l'ipotesi di una sanzione turistica, per così dire, che vada a colpire il copioso flusso turistico di italiani in Egitto c'è. Sì, assolutamente, perché il turismo rappresenta circa il 20% del PIL egiziano, con 25 miliardi di dollari. L'Italia, gli italiani sono degli assidui frequentatori soprattutto delle mete turistiche del Mar Rosso. Se la Farnesina inserisse l'Egitto tra l'elenco di quei paesi poco sicuri, c'è addirittura un sito fatto in collaborazione con l'ACI, paesi poco sicuri, paesi diciamo sicuri, allora a quel punto ci sarebbe sicuramente una riduzione dei viaggi e quindi anche degli afflussi di valuta pregiata. Anche l'ex ministro degli esteri Bonino ha detto che il richiamo dell'ambasciatore in realtà potrebbe avere delle controindicazioni e potrebbe anche danneggiare gli stessi interessi economici dell'Italia, che ricordiamolo si accinge a stringere un accordo già firmato di massima con l'ENI per le esplorazioni offshore del più grande giacimento di gas al largo dell'Egitto. Ti ringrazio, grazie a Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore per averci dato questo quadro. Ci occupiamo di terrorismo adesso e iniziamo ascoltando le dichiarazioni che ha rilasciato questa mattina il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, a 24 Mattino, Attenti a Quei Due, ospite dunque di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Delle dichiarazioni, a dire il vero, molto forti, che probabilmente faranno discutere. Sentiamo. Dovendosi mettere nei panni e nella mente dei terroristi, io credo che abbiano costituito in Italia, come in tutta Europa, una serie di cellule silenti. Credo che queste esplosioni siano la punta di un iceberg, di una polveriera che sta covando. È giusto non fondere l'allarme tra le persone, ma sarebbe anche giusto dire una volta per tutte che siamo in guerra e che non è una guerra, come vorrei essere irriverente, ma insomma, come ha detto il Papa, tirata dai mercanti di armi o addirittura dalla emarginazione. È una guerra religiosa, è una guerra santa. L'altro giorno in Pakistan si è visto cos'è accaduto ai poveri cristiani, non sono stati vittime di mercanti d'armi. È una guerra santa che un'organizzazione ha proclamato nei confronti dell'Occidente. Così dunque Nordio, che parla apertamente di guerra santa. Ma vediamo di fare un quadro del terrorismo in Italia, delle cellule che si pensa che ci siano, dei cosiddetti foreign fighter, ossia quelli che sono andati a combattere all'estero nel servizio della nostra Raffaella Calandra. 90 i foreign fighters già partiti, una decina quelli già rientrati, ma con quali intenzioni? Sta in questa domanda e in questi numeri il quadro della situazione italiana sul fronte del terrorismo e la sintesi delle preoccupazioni della nostra intelligence, di sicuro inferiori a quella di paesi come Francia e Belgio, ma non per questo inesistenti. Portano nel nord-est, nel bresciano, ma pure in Puglia e in Campania, le ultime tracce che collegano la cellula franco-belga, regista delle stragi di Parigi e Bruxelles, al nostro paese. In Puglia si indaga su una possibile rete di supporto che avrebbe favorito il cammino verso la Grecia anche dell'ex super ricercato Abselman Salah, mentre in Campania le indagini ruotano soprattutto sulla contraffazione di documenti dopo il fermo nel Salernitano dell'algerino il cui nome è spuntato nel covo belga dei terroristi. Nel bresciano invece l'antiterrorismo indaga su Mohamed Jalawi, fermato in Germania con SMS sospetti, e su Anas El Aboubi, già partito per la Siria tempo fa. Sta nel cuore del nord-est invece una delle prime inchieste su presunte cellule italiane di jihadisti, a Venezia, dove avrebbe fatto scalo uno degli attentatori di Bruxelles, e a Treviso, dove già mesi fa è stato individuato un gruppo dai contatti internazionali e con una missione chiara: lottare per il califfato. Quindi, anche se i numeri non sono quelli del resto d'Europa, anche per noi, per dirla col ministro dell'Interno, non esiste il rischio zero. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo tema torneremo più avanti, perché a quanto pare molti dei contatti di alcuni presunti jihadisti si addensano nella zona del bresciano. Per dare un'idea, nell'arco di 16 chilometri nella Val Sabbia c'erano un uomo che era un foreign fighter, quasi certamente morto in Siria, e Mohamed Lalawi, che è stato arrestato nei giorni scorsi in Germania, marocchino forse in contatto con gli attentatori di Bruxelles e Parigi. Viveva quest'ultimo a Vastone, ospiteremo il sindaco perché ha qualcosa da raccontarci su quest'uomo. Lo faremo più avanti. Intanto passiamo alla politica, che ci porta alle amministrative di Roma, che oggi si arricchiscono della presentazione del libro di Ignazio Marino e una conferenza stampa con frasi molto dure. Ignazio Marino irrompe nella campagna elettorale per il Campidoglio, ma non annuncia una sua discesa in campo, preferisce invece sparare a zero contro Matteo Renzi e il Partito Democratico. Mi dissero di andare negli Stati Uniti e sparire. Se avessi seguito i consigli del PD ora sarei in cella, attacca l'ex sindaco, presentando il suo libro Un marziano a Roma. L'Italia, aggiunge Marino, è l'unico paese europeo nel quale un premier che non è stato eletto da nessuno indica un commissario al posto di un sindaco votato invece da centinaia di migliaia di cittadini. Credo che questo sia una lesione della democrazia che è stata considerata con molta attenzione e con molta preoccupazione dalle cancellerie di tutti i paesi stranieri. Renzi ha fermato i cambiamenti messi in atto da me e ora dice che Roma è migliorata soltanto perché sono tornate quelle lobby che io avevo messo alla porta e con cui lui siede invece a tavola, attacca ancora l'ex primo cittadino che boccia la candidatura di Giachetti. Non mi sembra un grande passo avanti, dice Marino, che parlando invece del suo libro assicura che non è una vendetta ma un atto di amore nei confronti della capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo all'economia, iniziando dai dati diffusi questa mattina da Standard & Poor's. L'agenzia di rating fa le stime anche sull'Italia, dice: il nostro prodotto interno lordo è destinato nel 2016 ad attestarsi sul più 1,1%, lo ricordiamo e l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il governo sta approntando il DEF e sta preparando una stima di un più 1,3%, e quindi superiore a quella di Standard & Poor's, e crescerà secondo Standard & Poor's ulteriormente nel 2017 a più 1,3%. Sono questi le previsioni dell'agenzia di rating. Oggi tra l'altro sono stati anche diffusi dei dati più strettamente italiani, sono quelli delle pensioni diffusi dall'INPS, ce li racconta Vincenzo Miglietta in diretta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Numeri, Simone, sulla galassia INPS che al 1 gennaio 2016 comportano per l'istituto previdenziale una spesa di 196,8 miliardi, pari all'11,6% del PIL. Risorse queste che vanno divise per 18,1 milioni di pensioni, con una forte concentrazione però nelle classi basse di importo. Il 63,4% degli assegni, pari a 11,5 milioni, è inferiore infatti a 750 euro. Ma le statistiche dell'osservatorio delle pensioni INPS, che lo ricordiamo, parliamo non considerano i trattamenti pubblici ed ex empals, ci dicono ancora di più, ad esempio, che per le donne gli assegni inferiori a 750 euro sono oltre i tre quarti del totale, il 77,1%, per gli uomini la percentuale si ferma al 45%. Su 18 milioni di pensioni, inoltre, circa 14 sono di natura previdenziale, ovvero prestazioni che hanno avuto origine dal pagamento di contributi, vecchiaia, invalidità durante l'attività lavorativa del pensionato. Le rimanenti sono di natura assistenziale, costituite quindi dalle prestazioni erogate dalla gestione degli invalidi civili, pensioni e assegni sociali. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, non voglio suggerire collegamenti tra pensionati, Carlo Genta e quello che abbiamo visto in campo ieri sera. Però sei cattivo, ma puoi farlo, perché insomma pensionati no, però se l'Italia è questa c'è poco da essere allegri in vista dell'europeo che ci aspetta. 4-1 contro la Germania, un'avversaria difficilissima, campioni del mondo, però di solito la facciamo soffrire. Ieri sera invece la sofferenza è stata tutta azzurra, l'Italia mai in partita. Tra l'altro la prima sconfitta dopo quanti anni, non una ventina e passa. Sì, dal 95, l'ultima volta che avevamo vinto, sempre in amichevole peraltro, a Zurigo se non ricordo male. Ieri è arrivata, però quella era l'Italia di Sacchi, battuta 2-1, insomma questa è una sconfitta davvero pesante che ha lasciato i segni sulla faccia di un Conte che raramente si è visto così abbattuto, non era neanche arrabbiato nella dopopartita. Non vale nemmeno la giustificazione delle tante assenze, mancava praticamente quasi tutta la difesa titolare, poi si è fatto male anche Bonucci che era difesa della Juventus, mancavano Marchisio e Verratti che sono due giocatori fondamentali del centrocampo, però questo non conta. Molte assenze le aveva anche la Germania, che però ha una qualità ben diversa. Dunque adesso è tempo delle scelte. Conte dice di avere già in testa 16 giocatori, si tratta di completare la rosa per gli europei. Tempo non ce n'è tantissimo, anche perché resteranno due amichevoli, ma sono solo due test che precedono immediatamente l'inizio dell'europeo, contro la Scozia il 29 maggio e contro la Finlandia il 6 giugno, quindi il giorno prima praticamente della partenza per gli europei di Francia. Un'Italia preoccupante, Simone. Vedremo, sempre meglio ovviamente vincere, perdere in amichevole, magari vincere all'europeo, vedremo se andrà veramente così. Grazie Carlo Genta, che ritroviamo come sempre alle 14, dopo le 14, dopo il GR, dopo Europa 24, con tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo. In questa seconda parte della trasmissione, dopo aver sentito cosa succede sulle strade, ci occuperemo del concorso per la scuola, del concorso per gli insegnanti. Cosa succede oggi alle 14, tra insomma una quarantina di minuti, scade il termine per la presentazione delle domande. Al di là della confusione che si sta generando, perché molti si sono affollati all'ultimo minuto, sono andati un po' in tilt i server del Ministero, c'è un problema di ricorsi pendente che è molto forte proprio per le caratteristiche che ha questo concorso. Già questa mattina è arrivata notizia che il TAR del Lazio ha dato ragione a una ricorrente, la quale dunque sarà ammessa a concorso, ma chissà quanti ne pendono e quanti ne saranno ammessi nei prossimi giorni. Noi parleremo del tema in generale ascoltando un servizio e poi ospiteremo questa ricorrente che ha vinto. Tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli a partire da una notizia di poco fa. Il presidente francese François Hollande ha annunciato oggi la rinuncia al progetto di riforma costituzionale promessa 4 mesi fa e che riguarda il terrorismo, dopo dunque gli attentati del 13 novembre. E Hollande voleva inserire lo stato d'emergenza e la revoca della nazionalità agli accusati di terrorismo direttamente nella carta costituzionale. Ebbene, ha deciso di rinunciare. In questo ora Hollande sta toccando i minimi storici di popolarità con un 18%. Intanto, sempre sul fronte terrorismo, il procuratore aggiunto di Venezia Nordio dice a Radio 24: una guerra santa, anche in Italia ci sono cellule silenti, siamo sopra una polveriera. Il fronte dei Marò, l'Italia torna a chiedere il ritorno di Girone dall'India, rischia altri 4 anni di attesa. Un essere umano, dice il nostro paese, non può essere usato come garanzia. E sul caso Regeni, la Farnesina studia le misure per ottenere la verità dall'Egitto. Tra le ipotesi, sanzioni sul turismo, è estremamente improbabile il richiamo dell'ambasciatore. Le amministrative a Roma, Marino presenta il suo libro e si sfoga. Se avessi seguito i consigli del PD, adesso sarei in cella. Renzi lede la democrazia, aggiunge. Le cancellerie europee facciano attenzione. Passiamo dunque, come già annunciato, prima di sentire cosa succede, prima di aver sentito cosa succede sulle strade, a parlare del concorso nella scuola. Come si diceva, scade tra 40 minuti il termine per presentare le domande, appunto, per partecipare a questo concorso. Iniziamo dal servizio. Una di loro ce l'ha già fatta, esclusa perché laureata ma non abilitata, potrà sostenere con riserva le prove del concorsone della scuola grazie ad un provvedimento urgente del TAR del Lazio. E non è difficile immaginare che molti altri seguiranno. Sono migliaia infatti i ricorsi presentati da sindacati e associazioni dei consumatori. In Campania, su 6.000 posti disponibili, sono state presentate 15.000 domande. Amaro il commento del sottosegretario MIUR, Gabriele Toccafondi. Certo è che in questo paese sembra quasi impossibile fare un concorso senza avere problemi, ricorsi, TAR, giudice, avvocati e quant'altro. Questo governo ce la sta mettendo tutta per investire sulla scuola, sui ragazzi, sugli insegnanti anche. Sembra più, diciamo, importante il giudizio di qualche tribunale o di qualche avvocato. Tanti ricorsi, meno del previsto invece le domande arrivate. Se ne prevedevano 200.000, non supereranno le 160.000. Mentre i posti disponibili, lo ricordiamo, sono 63.700. Troppe le difficoltà incontrate nel percorso online di iscrizione, troppi pasticci che hanno portato lo stesso Consiglio Universitario Nazionale a scrivere al ministro Giannini denunciando classi di concorso cui possono accedere laureati privi delle competenze indispensabili e che escludono invece laureati con le competenze richieste. Un esempio? Ingegneri edili o architetti del paesaggio insegneranno nei licei artistici all'indirizzo audiovisivo multimediale, esclusi invece i laureati in scienze dello spettacolo. Ma gli intoppi non finiscono qui. In rete protestano i candidati per la mancanza dei quesiti tipo che il MIUR aveva promesso per esercitarsi, per non parlare delle questioni pratiche. Non si trovano le aule di informatica adatte alla prima prova scritta, che sarà solo online, né commissari e presidenti reclutati su base volontaria. Vada come vada, il 12 aprile si conosceranno le date delle prove. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, non vuole che diciamo il suo nome perché non le va di apparire tanto, ma è in linea con noi la persona poco fa citata dalla nostra Maria Piera Ceci nel servizio, ossia l'insegnante che ha vinto il ricorso. Il TAR del Lazio ha deciso che potrà partecipare al concorso. La saluto, buongiorno e benvenuta. Salve, buongiorno a voi. Allora, quali sono i due fronti di problemi di questo concorso? Da una parte, il concorso è stato indetto richiedendo in sostanza che i candidati avessero partecipato a una sorta di corso abilitante indetto dal Ministero dell'Istruzione, e però non tutte le materie nelle quali gli insegnanti potranno andare per le quali gli insegnanti potranno andare nelle scuole sono state precedute da un corso abilitante, in sostanza. Cioè il concorso, sì, dice, questo è il concorso dice il mio caso, esattamente, e questo è il suo caso. E dall'altra parte mi scusi, dall'altra parte c'è l'elemento degli insegnanti della cosiddetta terza fascia, magari gente che insegna da anni, ed è anche questo il suo caso, e che però al concorso non può partecipare. Però io prima le devo chiedere una cosa, perché ha sentito il sottosegretario Toccafondi, e questo è un grande tema nostro, il quale spesso ci occupiamo, no? Questo paese è un po' ricorsopoli. Lei in realtà mi diceva non è un tipo da ricorsi normalmente, cioè si è un po' forzata per presentarlo. Fa parte della mia etica professionale, quindi non ho mai partecipato ad alcun tipo di ricorso e non me ne sono mai interessata, perché preferisco seguire un bando e quindi un certo iter legislativo. Questa volta purtroppo mi sono trovata ad avere una situazione un po' particolare, perché ho una certificazione in didattica dell'italiano agli stranieri e subito dopo è stata indetta questa nuova classe di concorso, dove appunto accettano la mia certificazione della CA Foscari. Cosa accade però? Che dallo stesso tempo non c'è un iter abilitativo, per questa nuova classe di concorso agli stranieri. Quindi la spiego per, meglio per gli ascoltatori. C'è il concorso per quel tipo di insegnamento, ma non è stato fatto il corso perché gli insegnanti che si presentano al concorso fossero abilitati e quindi di fatto teoricamente non può partecipare nessuno a quella parte del concorso. Teoricamente sì, però il bando parla chiaro, accetterebbero altri tipi di abilitazioni che magari è per lettere, latino, greco, lingue, poi adesso non entro magari poi nel merito. L'unica cosa che mi ha spinto appunto a provare questa strada del ricorso, ripeto, è stata proprio avere un titolo e non però un'abilitazione che neanche loro però hanno mai proposto. Sì, ecco. Cioè lei ha un tipo di certificazione diversa che non è l'abilitazione, come dire, del ministero, quella istituzionale del ministero. Mi aggiunge un'altra cosa. Non l'avrei mai potuto fare. Mi aggiunge un'altra cosa. Lei in realtà insegna già, perché sì, in quella cosiddetta terza fascia. Mi scusi un attimo. Allora, lei nella cosiddetta terza fascia, spieghiamo anche questo agli ascoltatori, che è quella dalla quale i dirigenti scolastici possono pescare per le supplenze, la faccio molto semplice. E lei insegna da 4 anni in realtà? Sì, più o meno sì. Sì, faccio delle supplenze oramai dai 3-4 anni, quindi ecco, anche lì dico, ma come, sono a scuola, poi però magari non posso partecipare ad un concorso, ecco. Questo... Anche questo mi è ci sono state delle questioni che mi hanno spinto a rivolgermi ad un ricorso. Quindi ho prima fatto una cernita di tutti coloro che lo proponevano e allo stesso tempo poi ho deciso per l'ente, che è l'avvocato Leone, che anche solo telefonicamente, di questo ci tengo a ringraziarlo, hanno dato sempre delucidazioni pronte, immediate, e per questo hanno conquistato la mia fiducia. Ho deciso di ricorrere con lui. Poi l'avvocato Francesco Leone, che insieme ad altri, tra l'altro anche il Codacons sta per partire con una serie di ricorsi, probabilmente a livello collettivo, su tutto questo. Io intanto la ringrazio, come avete sentito è una storia, non sarà l'unica, evidentemente ci sarà qualcuno che ha fatto probabilmente anche ricorsi meno fondati, però è una delle storie di questo concorsone della scuola. Adesso ci fermiamo. Andiamo a sentire che cosa succede in borsa, come sempre a quest'ora, e poi torneremo ad occuparci di terrorismo e parleremo dell'area del Bresciano. Come si diceva, è una situazione un po' particolare là, perché ci sono una serie di elementi che riconducono all'area del Bresciano, non diciamo proprio forse una rete jihadista, ma sicuramente qualche contatto anche con gli attentatori di Bruxelles e di Parigi. Ci sono altre vicende, tra le altre quella che il procuratore capo di Brescia in questo periodo, e la notizia delle ore scorse, è costretto a girare con la pistola nonostante sia sotto scorta, esattamente perché si occupa di queste vicende. Parleremo col sindaco di un paese che ospitava un uomo che si ritiene aver avuto contatti con gli attentatori di Bruxelles e di Parigi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ecco i nostri titoli sui Marò. L'Italia torna a chiedere il ritorno di Girone dall'India, rischia altri 4 anni di attesa, un essere umano non può essere usato come garanzia, l'India replica, non è in prigione. Sul caso Regeni, intanto, il nostro paese studia le misure per ottenere la verità dall'Egitto. Tra le ipotesi, sanzioni sul turismo, improbabile il richiamo dell'ambasciatore. Presidente francese François Hollande ha rinunciato alla revoca della nazionalità agli accusati di terrorismo da inserire nella carta costituzionale. Proprio sul terrorismo il procuratore aggiunto di Venezia Nordio a Radio 24 dice: è una guerra santa. Alle 14, lo avete sentito, si chiudono le iscrizioni per il concorso della scuola, rischio caos tra ricorsi, di cui uno già accolto dal TAR del Lazio, e problemi organizzativi. Infine le amministrative a Roma con Marino, che presenta il suo libro e si sfoga: se avessi seguito i consigli del PD, adesso sarei in cella. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per tornare a parlare di terrorismo. In che chiave? Nei giorni scorsi è stato arrestato in Germania Mohammed Lalaoui, un appunto un cittadino marocchino che per anni ha vissuto nel Bresciano e nella fattispecie ha vissuto a Vestone, che fa parte della comunità montana della Val Sabbia, è un paesone di 4.300 abitanti, anche molto sparso sul territorio, se volete, come sempre accade in zone di questo tipo. Abbiamo in linea con noi il sindaco, che è Giovanni Zambelli, che se non erro è della Lega Nord. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Sì, non sbaglio, della Lega lei, no? Sì. Benissimo. Allora, ci dà un'idea di questo personaggio che, appunto, come si diceva, adesso è stato arrestato in Germania, si ritiene collegato, forse, ovviamente, qua, insomma, con i terroristi o con i presunti terroristi si tende ad essere un po' più tranchant, ma anche qua ovviamente vale il garantismo che ci dobbiamo mettere. Come si diceva, è stato arrestato in Germania, si ritiene connesso forse agli attentatori di Bruxelles e Parigi. Ci dà un'idea di che personaggio era? Ma noi lo conoscevamo come un delinquente comune, perché si era macchiato di reati contro il patrimonio, droga, alcolizzato, uso del coltello facile e quant'altro, ecco. Penso che, da come lo conosciamo noi, è un po' distante dagli integralisti islamici, però sì, magari il passo è anche breve, però sì, noi non lo conoscevamo sotto questo aspetto. Non lo conoscevate sotto questo aspetto, appunto, uno che beve e che, appunto, reati contro il patrimonio non è esattamente il prototipo dello jihadista, per due motivi, perché beve da una parte e dall'altra parte perché non sta coperto, per così dire, no? Faccia droga, ruba, fa uso di droghe, queste cose che non si conciliano con la loro religione, diciamo. Senta, la comunità, rispetto alla dimensione del paese che lei guida, la comunità musulmana è abbastanza ampia, mi sembra di capire. Sì, su poco meno di 700 extracomunitari, su 4.400 abitanti, la comunità marocchina è di circa 300 persone. E problemi ce ne sono da questo punto di vista? Problemi gravi no, tolto, diciamo, magari anche qua si fanno uso di droghe e il piccolo spaccio, diciamo, generalmente in mano a loro. E però, non avete visto, sindaco, quello che dico, molto semplicemente, non avete visto segnali, come dire, che possano indicare, appunto, una radicalizzazione, cioè una virata verso lo jihadismo? Quello non mi è dato sapere. So che ultimamente girano dei personaggi che ha fatto in modo che le donne che prima vestivano all'occidentale, cioè, tanto per intendersi, portavano i bambini all'asilo o alla scuola senza velo, adesso alcune l'hanno rimesso. E questo deriva dal fatto che è arrivato qualcuno da fuori e ha, diciamo, orientato le scelte esteriori delle donne, soprattutto delle donne. E in quanti casi è avvenuto questo, sindaco? Una decina di casi, perché io ho la moglie che fa l'insegnante dalla maestra d'asilo e vengo tenuto al corrente di queste cose. E questa persona da fuori, da dove è arrivata? Cioè, fa parte della comunità marocchina o sì, no? Sì, marocchina, ma credo anche, siccome io ho rapporti tutti i giorni anche con gente che è diventata, che ha dato la cittadinanza, mi si spiega che i marocchini che sono sul nostro territorio vengono non dalle città ma dalle zone più, diciamo, più remote e agricole del paese, magari anche culturalmente un po' meno, come dire, meno pronte ai cambiamenti. Un po' meno avanzate. Ma esatto. Mi faccia capire, giusto per capire che tipo di segnale poi si rileva anche sul territorio. Quello di cui ci sta parlando è di una persona che è arrivata e che ne ha convinte altre, o ci sta parlando semplicemente di nuovi arrivi, di nuove persone che costringono le donne a portare il velo integrale? Probabilmente più persone. Dopo, le dinamiche al loro interno difficilmente noi le conosciamo fino a fondo, perché loro hanno anche un appartamento che non è una moschea, però viene usato come ritrovo per pregare, per insegnare l'arabo ai bambini, e all'interno quello che succede lì lo saprà forse la Digos, il sindaco non lo può sapere. Ecco. Noto che una loro fetta fa fatica a integrarsi, anzi alcuni non ci provano per niente, vedo a scuola che non vengono con il materiale didattico, le mamme sono introvabili, non partecipano alle riunioni ad hoc organizzate, queste cose. Cioè di fatto si rifiutano di studiare in sostanza i ragazzini di queste famiglie. Non collaborano e la cosa viene naturalmente dalle famiglie, viene dai bambini. Beh, quello è evidente, insomma, soprattutto nel caso di bambini delle elementari. E da quanto percepisce questi segnali, sindaco? Ah, beh, da quando sono sindaco, io sono sindaco al secondo mandato e tutti gli anni le prime classi sono quelle più difficili da questo punto di vista. Dopo man mano i bambini e le maestre che fanno fatica, perché avere 25 bambini, quasi la metà sono extracomunitari, è una fetta di loro, ma ci sono anche dei bravissimi bambini che prendono anche le borse di studio, però non è una cosa generalizzata. Sì, no, ma certo, è chiarissimo. È una percentuale di... Ecco. Chiaramente, anche perché parliamo da quel che ci ha detto, più o meno del 7-8% della vostra popolazione, considerato che generalmente come dire, gli immigrati fanno molti più figli di noi, è probabile che anche come percentuale di bambini sia piuttosto alta. Un'ultima domanda, sindaco, mi chiede un ascoltatore, lei l'ha segnalate queste cose, cioè perché possono essere segnali, non necessariamente, che però indicano, potrebbero indicare una radicalizzazione, insomma, ecco. E per quanto posso fare, io sono in rapporto quotidiano con le forze dell'ordine, abbiamo anche una polizia municipale, e queste cose ne parliamo un giorno sì, un giorno no. Ecco. La ringrazio, grazie a Giovanni Zambelli, sindaco di Vestone, appunto provincia di Brescia, dove ha vissuto Mohamed Lalaoui, arrestato con l'accusa di essere contiguo al terrorismo in Germania. Allora, prima di andare a chiudere, occupiamoci di musei italiani che sono troppo poco presenti sui social. A questi il nostro ministero ha dedicato una giornata questa mattina, molto se ne è parlato. Sentiamo che cosa è emerso. Twitter è una mosca bianca, Facebook si presenta spesso con pagine mal gestite e poco aggiornate, Instagram, Pinterest e YouTube sono quasi un optional. I musei italiani sono poco social, a denunciarlo il rapporto dell'Associazione Civita. I musei italiani sono ancora molto indietro nell'utilizzo di questi canali, nonostante gli italiani siano una popolazione molto social. Tra i principali ostacoli, i vincoli normativi, come quello sull'utilizzo delle immagini e delle opere d'arte sui canali digitali, le difficoltà finanziarie che non consentono l'acquisizione di professionalità specializzate all'interno dei musei o semplicemente la scarsa esperienza, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Abbiamo un ritardo da recuperare, ma la riforma del ministero, l'autonomia dei musei, i direttori che vengono da esperienze internazionali puntano esattamente a colmare questo ritardo. Abbiamo peraltro messo a punto un sistema di valutazione della presenza dei grandi musei italiani sui social network che sta funzionando e non è solo un monitoraggio ma è uno stimolo a fare di più. Tra i musei più social in Italia, Palazzo Strozzi di Firenze, Musei Vaticani, Musei di Arte Contemporanea. Poco al passo con i tempi invece Palazzo Ducale di Venezia, Palazzo Reale di Milano, il Complesso del Vittoriano di Roma che non hanno alcun profilo. Alessandra Schepisi, Radio 24. E sole 24 ore, Roma. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.